Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro e a guidare la radro, sai che ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a 9 code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi 2 elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar. Eccoci qua. Alle 8:20 minuti, anzi 21. Sempre 21. In diretta e anche oggi fino alle 9:30. Fino alle 9:30, tutto il mese di luglio. In questo 6 luglio, giorno nel quale si celebra una santa che negli anni 50, quando fu proclamata, era un po' il simbolo delle virtù additate alle giovani italiane, Santa Maria Goretti, dodicenne, lavorava duramente già a 12 anni nei campi e con i bimbi fratellini e la famiglia viene all'Agropontino. 18enne tenta di stuprarla, lei resiste, viene accoltellata, muore in nome della virtù e diventa santa in nome appunto delle virtù additate ai giovani italiani in quegli anni. E insomma, nei decenni successivi si sviluppa un dibattito, come modello non è un granché a dettare ovviamente la morte, però era il modello delle virtù dell'Italia tradizionale del secondo dopoguerra. Oggi nel 1785 nasceva il dollaro, che quindi compie i suoi bei 231 anni e compiono gli anni, tra l'altro, Luigi Di Maio, che fa 30 anni del Movimento 5 Stelle, e George W. Bush. Lo metto apposta perché non credo che non so quale, Di quale Maio piaccia molto essere paragonato. Auguri anche a chi si chiama Tranquillino e Palladio, ecco, tra i santi vari con nome strambo. Va bene. Quale delle tante notizie vogliamo? Beh, insomma, intanto, cari pensionati, o meglio, cari pensionati d'oro, sì, anche di platino, d'oro, anche di platino, che a voi Letta aveva chiesto un prelievo, no, nel governo messo in finanziaria, un prelievo eccezionale, temporaneo e ragionevole, così ha deciso la Corte di Cassazione. E quindi, stiamo parlando di assegni che vanno da almeno 14 volte il minimo a salire, no? Avevano fatto ricorso, ex professore universitario in Italia, sperando che la Corte, che blocca tutto, ricordate, la Corte Costituzionale ha bloccato lo stop che era venuto per gli assegni di proporzioni però molto più basse, e quello lo aveva bloccato perché in realtà rifiutava la Corte che quello era un contributo alla finanza pubblica. Qui invece è diverso, perché poiché il contributo richiesto attraverso un esborso percentualmente crescente a chi ha questi multipli della pensione minima resta nel sistema previdenziale ed è a tempo comunque, allora in questo caso la Corte ha detto giustissimo. Adesso ha detto di sì, e quindi respinti i ricorsi, insomma, questo prelievo sulle pensioni d'oro è giusto, è legittimo, io lo trovo anche giusto per una questione di equità sociale, ma so che immagino tutti coloro diranno di no, che ci chiameranno a dire sono diritti acquisiti, non si toccano, ho lavorato con delle regole che mi sono state cambiate in corso. No, soliti discorsi che ci vengono fatti. Sì, perché tutti sono convinti che appunto prendano una pensione con il loro contributo che resta da parte ed è quello che viene restituito. Non funziona così in un sistema a ripartizione. Comunque, chiamateci all'800 24 00 24. Oggi parleremo anche dello sciopero di Alitalia che c'è stato ieri, anche Meridiana hanno scioperato. Però lo sciopero di Alitalia ha presentato una novità storica. Cioè, il ministro delegato che il giorno prima si è scusato con i passeggeri e ha detto, tra l'altro, i sindacati che hanno proclamato lo sciopero difendono un privilegio e ha indicato quale, ne parleremo, perché ha detto nelle altre compagnie questi privilegi non ci sono più. La gente che lavora in Italia dovrebbe rendersi conto che è finito il tempo da tanto tempo, visto che continuiamo ad andare malino. Esatto, un privilegio di cui si parla è quello anche del fatto che possono avere la mobilità gratis gli assistenti di volo e i piloti, cioè per andare nel loro punto dove devono poi prendere servizio e volano gratis fino a lì. Avremo il sindacato, uno dei sindacati dei piloti, che sarà con noi, avremo insomma a parlare di questo. Parleremo anche di carcere. Mi ha molto colpito, caro Oscar, la storia di Ilaria Carcere. Capua, che è raccontata dal Corriere della Sera, da Repubblica, è stata assolta alla fine. Vi ricordate? Era accusata di aver diffuso l'aviaria, un'accusa terribile. Cioè, l'accusa di traffico internazionale di virus. Esatto. È stata indagata per 2 anni, mai sentita dai magistrati, mai convocata. Dice, mi hanno buttato addosso. Usa questa immagine forse anche un po' esagerata, come se avessero buttato dell'acido addosso. Sfregiata. Beh, vita per un virologo di eccellenza, voglio essere perseguito penalmente sotto quelle accuse, più o meno l'equivalente. Sì, ricordiamo che la Capo se n'è andata in America, ha fatto certo bene, e che è un paese che persegue penalmente i suoi scienziati ricercatori, con i magistrati li persegue come sempre, perché oramai noi sottoporremo a processo Galileo se fosse vivo. Da questo punto di vista è ovvio che sarebbe così, cioè è inutile. È un paese fottuto, un paese che ha dei magistrati che si mettono a perseguire gli scienziati. Ha fatto bene andarsi in America, secondo me, la Capo. Sì, tra l'altro accusa, mi sono stata insultata proprio, ma anche con accuse terribili, anche in Parlamento mi davano, diciamo, della zoccola, della puttana, iniettatele il virus, mettetela alla gogna. Questo dice, denuncia per esempio in una pagina Facebook, io voto Movimento 5 Stelle, ha trovato queste accuse che per anni le hanno fatto particolarmente male. E ora, insomma, è un ennesimo caso di giustizia negata, diciamo così. Tra l'altro parleremo anche di ingiustizia dalle 9 alle 9.30, caro Oscar. Coloro che vanno in carcere o che sono accusati e poi ingiustamente. E il bello è che, siccome c'è una legge da un po' di anni, la legge Pinto, che a quel punto consente i risarcimenti diventano centinaia di milioni per lo Stato, e lo Stato dice, beh, certo, questa legge però è troppo a favore delle mie vittime, bisognerebbe tagliarla perché non posso rimetterci tutti questi soldi. E vai con le polemiche, i magistrati dicono tutta colpa della prescrizione, e così via, e così via, così. Hai visto che in realtà poi anche il circolo degli alfaniani si difende dicendo che questa sarebbe stata una... come devo dire, questa indagine una specie di offensiva dei magistrati, perché ha dato politica, una stretta alle intercettazioni. Politica. Un'offensiva politica. Beh, il classico modo, insomma, di difendersi della politica da sempre, insomma, di fronte alle accuse, sono i magistrati che vogliono politicizzare le inchieste, non so, di questa vicenda. Però io non ho letto molto tutte queste intercettazioni, questo sistema che piloterebbe appalti, mazzette. No, le intercettazioni sono antropologicamente uno spaccato dell'eterno ritorno della politica italiana, cioè fratelli, sorelle, curriculum, padri, 80 curriculum, ufficiali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri che vogliono essere promossi, cioè l'eterno Totò, come devo dire. Certo, per un ministro dell'interno questo entourage non è un granché. Io adesso non entro nemmeno io nella valutazione penale, qui ci penseranno i giudici, però non è un granché, capisci? Non è un granché. Sapere che ci sono questi qua che continuano a ogni grande gara che c'è nei ministeri, tentano di e così via, non lo so, mi pare, dirai tu, e vabbè, ma dai, è l'eterno della politica. No, purtroppo è l'eterno della politica, nel senso che se ne leggono gli spaccati del genere e si leggono di inchieste del genere, ne abbiamo lette decine e decine. Non bisogna rassegnarsi a dire è così, ma soprattutto non mi piace la reazione, il giro di vite per le intercettazioni, perché quello può essere, se è giusto o meno, sacrosanto o meno. Però se c'hai il tuo fratello che viene, insomma, come dire, non c'entra niente, no? I fatti che emergono dalle intercettazioni, ripeto, non li giudico penalmente, ma politicamente non c'entrano niente con le intercettazioni. Questo sì. Allora, ci chiama Carlo dalla provincia di Milano. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Senta, io ho innanzitutto un saluto a lei e al dottor Giannino. Io non sono d'accordo con quanto ha affermato poco fa il dottor Giannino, cioè che è il paese che è responsabile, tra virgolette, di ciò che è capitato ad Ilaria Capua. Ho detto povero il paese, è fregato il paese perché se n'è andato in America, in cui i magistrati perseguono gli scienziati. Questo c'è, cioè, però non è colpa, ecco, del no, paese. Ma al di là di questo, io mi domando questo, ovvero: ci sono nomi e cognomi di giornalisti, di magistrati, di politici che in commissione hanno affermato ciò che hanno affermato, che viene esplicitato nell'articolo di Gian Antonio Stella. E allora domando, secondo lei, Giannino, cosa si deve fare per impedire a costoro di perseverare in questo tipo di comportamento? Perché non possono cavarcela con delle scuse, forse se le faranno mai alla povera Capua. mi dica lei, per favore, cioè, cosa bisogna fare per fermare i magistrati? Io non è che voglio... No, non per fermare i magistrati, per punire questo magistrato, per punire questo giornalista, perché questo giornalista divulga delle notizie e spesso noi ci crediamo. Ma insomma, adesso Oscar. Ecco, però il problema, guardi, io distingo solo tre cose. Primo, lì innanzitutto c'è un problema di credulità generale quando si tratta di attaccare le multinazionali che fanno ricerca farmaceutica, eccetera, eccetera. Scatta questo riflesso condizionato del dibattito pubblico italiano, per cui chi racconta le tesi complottistiche più azzardate immediatamente diventa un dio dei social. Questo è un fatto. Si tratti della Xylella o della Viaria, è testimoniato che è così. E vabbè, è questo la dice lunga sulla cultura generale. E se sei contro, sei il difensore di questo osceno sistema dell'imperialismo neoliberista. Seconda questione, andiamo a quello che dice lei. C'è un problema di classi dirigenti. Quando chi fa informazione e magari i politici usano gli stessi toni, allora alziamo il gradino. Lì non è il problema, diciamo, le incerte basi culturali del nostro dibattito pubblico. Diventa la responsabilità di chi lo strumentalizza. Lo strumentalizza per fini politici, per fini professionali. Professionali e così via. E questo ci dice delle classi dirigenti. Anche lì non si può punire penalmente. Terzo, la cosa per me tragicamente più grave, quando la magistratura si mette a fare i processi agli scienziati. Allora, la magistratura fa i processi. Si tratti dei sismologi all'Aquila, o si tratta della procura sulla Xylella, perché anche lì la tesi è che c'è chi ha un ricercatore avrebbero importato la Xylella per i loro affari in Puglia contro i coltivatori pugliesi. Cioè, un magistrato che ipotizza cose simili, li ipotizza, può ipotizzarli, ma che di fronte ai fatti non si ferma. Ecco, lì sono d'accordo con lei. Bisognerebbe, con qualche sanzione al CSM, far capire ai magistrati che i tempi di Galileo sono finiti. No, ma io aggiungo, Oscar, non è una difesa di categorie, non voglio difendere, perché io ho letto l'articolo di Gian Antonio Stella in rassegna stampa. Si parla di Lirio Abbate, dell'Espresso, che viene citato da Ilaria Capua a dire mi ha fatto delle domande e poi ha messo questa prima pagina dell'Espresso, e Ilaria Capua dice l'ha querelato l'Espresso. Ma il giornalista fa il proprio lavoro, cioè se c'è un'indagine aperta da un magistrato, un fascicolo in cui si ipotizza che una ricercatrice faccia traffico di virus per un'epidemia, per minacciare un'epidemia, il giornalista che viene a sapere questa notizia fa benissimo a raccontarlo. Scusate, ma il problema è forse in testa, cioè al limite di un'inchiesta che non aveva né capo né coda. Questo almeno si è accertato. Però insomma, d'altronde i magistrati devono aprire i fascicoli, cos'è, quando c'è l'ipotesi di reato, caro Oscar. La famosa obbligatorietà dell'azione penale, che come sai però è una finzione, non è così. Aprono perché decidono di aprirla, ecco. Allora, comunque ci chiamano anche Luigi da Padova. Buongiorno Luigi. Buongiorno a voi. Eccoci. Una semplice riflessione sui diritti acquisiti. Intanto mi incuriosisce che una consulta impiega così tanto tempo per pronunciarsi su un tema di questo tipo. Beh, e poi così un parallelo, tanto un parallelo, beh, due anni, dal 2014. I ricorsi ora che sono arrivati. Ma voglio dire, nel mondo reale, quando un'azienda è in difficoltà, ci sono delle riduzioni, dei risparmi di spesa e anche dei benefit che vengono ridotti ai dirigenti e al personale che prende più soldi. Per certe categorie, io non so se chiamarli diritti acquisiti o benefit esageratamente goduti. Questo è il tema. Io non so, i diritti acquisiti forse sono altri, non certo questi. Ma no, ma poi i diritti acquisiti è un'espressione che trae molti ricambi. Non esistono su questa materia. Ripeto, è come attestato da una cospicua, molto ricca giurisprudenza. Tranne alcune volte in cui la Corte contesta criteri di equità, lo si fa con alcuni sì e con alcuni no, e se non è ben giustificato l'utilizzo di ciò che sopravviene allo Stato, la Corte ha sempre giustificato il fatto che si possa ex post cambiare anche il carattere degli assegni previdenziali, perché, ripeto, viviamo in un sistema a ripartizione, cioè gli assegni vengono pagati dai contribuenti, da chi versa i contributi mese per mese, mentre chi c'è chi le incassa le pensioni. Esatto, quindi, non è la propria pensione che uno accantona. Qui. Questo l'abbiamo spiegato varie volte. Comunque Luigi, insomma, ci teneva a sottolineare che più che diritti acquisiti, semmai dovremmo chiamarli privilegi troppo, troppo goduti per anni. Marco, però le regole erano quelle, questa è l'obiezione, certo, di chi legale, gode. Nessuno è colpevole, esatto. Se la politica gli ha regalato i soldi, cioè chi lo rappresentava ha contrattato bene con la politica. Come le baby pensioni, mai toccarle, d'altronde me le hanno date, non è che le ho rubate, non sono entrati in banca a rubarle. E così andiamo avanti verso il fallimento. Marco da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, io chiamo per lo stesso motivo dell'amico di Padova di poco fa, e niente, volevo dire invece che io sono d'accordo per quanto riguarda i diritti acquisiti e spero che la Consulta dia ragione ai nostri politici, in quanto per lo stesso motivo io che ho iniziato 32 anni fa, a 15 anni, fra 3 anni, perché allora vigeva questa regola, questa legge, a 35 anni si andava in pensione con la massima, quindi io a 50 anni dovrei andare in pensione per lo stesso motivo, perché ho acquisito gli stessi diritti, no? Dovrei avere appunto avere questi diritti acquisiti, e quindi spero che venga applicata anche per le persone che si trovano nella mia identica situazione. Ma in verità io andrò in pensione con 55 anni di servizio, forse. Ecco, questo forse è quello che volevo dire, e buongiorno a tutti. Grazie Marco. Le regole mutano, le regole cambiano, questo sì, è però questa, perdonatemi, semplice concetto che abbiamo ancorato l'evoluzione automatica nel tempo dell'età, dei requisiti minimi anagrafici e anni di contributi versati all'evoluzione nel tempo delle attese di vita. Ma perché vi sembra così inaccettabile? Perché questa è una cosa sulla quale io proprio non riesco a capire chi dice no a questa roba qua. Cioè, perché quando io ho iniziato a lavorare non era così? E quando tu hai iniziato a lavorare non era così? Il era un paese era che cresceva a tassi che oggi non è. Gli anziani e i giovani erano completamente diversi. Quello è l'unico sistema per sperare che i giovani, se lavora, possa pagare i contributi per la tua pensione che intanto la incassi. Questa a me sembra, però io capisco, a tanti non entra in testa. No, non entra anzi in testa. Considerano ingiusta. Ma perché cosa. Si ragiona sul particolare, si ragiona sulla propria situazione, non si riesce a fare un discorso generazionale. Oscar, dai, pensare che uno dica beh, ma i giovani, al limite vede il proprio figlio, se proprio ce la fa, il proprio nipote, il proprio cugino, stiamo mandando il proprio parente stretto, tutti quelli che hanno meno di 40 anni in questo paese. È così. Allora 800 24 0024, chiamateci. Tra poco parliamo invece dello sciopero di Alitalia. Un altro bel pezzo. Evviva. L'amministratore delegato di Alitalia che ha detto: ma insomma, scusate passeggeri, scusate intanto, utenti. Novità: l'amministratore delegato che il giorno prima si scusa con i passeggeri. E i piloti arrabbiati, gli assistenti di volo arrabbiati, i sindacati arrabbiati. Tra poco ne parleremo. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Mattino. Allora, siamo qui, sono le 8:42 minuti. Sono le 8:42. Caro Oscar, allora parliamo dello sciopero di ieri all'Italia. C'è stato anche lo sciopero meridiana, ma la cosa che ha più colpito è il fatto che l'amministratore delegato dell'Italia abbia chiesto scusa agli utenti, questo di fatto. Preventivamente, no? Giorno prima, sì, dicendo oltretutto quello che mi dispiace sottolineare è che la protesta indetta dai sindacati ha tra le tante ragioni una che per noi è particolarmente inaccettabile, che vorremmo che fosse chiara: difendere un privilegio che nelle altre compagnie non c'è. E quindi i tempi sono cambiati, noi dobbiamo migliorare il bilancio, e che ci vengano chieste queste cose per noi è incomprensibile. Cioè, il privilegio è quello di essere, vogliono ritoccare le regole per i pendolari dei voli, insomma i piloti che viaggiano gratis verso le destinazioni di lavoro, e questa cosa all'azienda non piace più. Tra l'altro noi abbiamo il presidente dell'Associazione Nazionale Piloti, Antonio Di Vietri. Buongiorno Di Vietri, grazie di essere qui. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Siamo un'associazione che racchiude piloti ed assistenti. Esatto. E siete identificati come la casta dei cieli, lei lo sa. Cioè, ancora, come no. La casta dei cieli. No. Certo. Ma c'è questo privilegio? Cioè, ce lo dica chiaramente. No, è una sciocchezza, è una enorme e straordinaria sciocchezza, purtroppo non l'unica di questi ultimi ultimi giorni, perché il cosiddetto passaggio strapuntino, cioè la possibilità per il personale di volo pendolare ma anche non pendolare di poter salire sull'aeroplano e occupare un posto libero, uno strapuntino che può essere in cabina di pilotaggio piuttosto che quello di un assistente di volo, è qualche cosa che ovunque del mondo da sempre, non solo, ma fino a qualche anno fa, prima della tragedia dell'11 settembre, tranquillamente un qualunque navigante poteva andare con i propri documenti e in divisa sotto un aeroplano della compagnia X e chiedere uno strappo per la destinazione che questa compagnia andava e un passaggio, nessun problema. Un passaggio. Cosa banalissima. Non solo. L'azienda dice che però nelle altre aziende non c'è, nelle altre compagnie non c'è più questo. È un'altra stupidaggine, ma non è affatto vero. Ma c'era l'EasyJet, c'erano le compagnie low cost, c'era l'Air Dolomiti, c'era la Meridiana, c'era l'Air Italy, ce l'hanno tutti. Il tema, se vogliamo approfondire, è un altro. Allora, questo passaggio che prima era gestito alla garibaldina, oggi ha comunque un costo. Perché? Perché le società aeroportuali hanno deciso che comunque anche questo personale che viaggia in questa maniera ha da pagare le tasse di imbarco aeroportuali. Questo è avvenuto già da qualche anno, tant'è che fu oggetto di discussione negoziale a contratto, e parliamo di un paio d'anni fa, e si disse, vabbè, per quanto riguarda questa cifra, che è una cifra ridicola, 12 euro circa, unitariamente, ma chiaramente incomincia a fare un certo volume, considerando che su 8.000 naviganti di Alitalia intorno all'8% circa sono pendolari, abbiamo un costo industriale che può arrivare anche a cifre significative. Allora, in un momento in cui l'Alitalia è in grande crisi, l'Alitalia ha ben pensato di tagliare questo, cioè non il passaggio in sé, perché i fringe benefit, cioè gli sconti ci sono per tutti. Questo era uno specifico passaggio. Vabbè, insomma, si sono diciamo, concentrati su una minuzia, lei ci sta dicendo. Alla fine lei ha detto che è tutto inventato, però ammette che in realtà costate in questa maniera. Il personale navigante costa e quindi l'azienda ha i suoi interessi. Non è che si è inventata una cosa perché sono matti. Ha citato compagnie che perdono abbondantemente, non EasyJet, ma Meridiana e così via. Però il problema, secondo me, c'è. È un po' diverso dire... No, l'Alitalia ha inventato, l'amministratore delegato se l'ha inventata questa cosa. E tra l'altro faccio la stessa domanda, Andrea Giuricin, che è con noi, collegato, che insegna Mobility Management all'Università Milano Bicocca, e gli faccio questa domanda. È inventata la polemica dell'amministratore delegato dell'Alitalia, secondo lei? No, assolutamente no. Il passaggio strapuntino è vero che esiste in tutte le compagnie, ma in tutte le compagnie non è mai stato completamente gratuito. Quindi questo è il primo punto. Non a caso anche i dipendenti dell'Italia continueranno ad avere, ad esempio, anche i cosiddetti biglietti, poi dipende dal nome delle compagnie, alcuni li chiamano Z-Free, qua IT, però avranno i biglietti, ad esempio, se vogliono volare verso New York probabilmente spenderanno solo le tasse intorno ai 70 euro per andare a New York, quindi continuano ad avere un certo privilegio. La cosa è che Alitalia in questo momento giustamente vuole fare efficienza di costo, ed è giusto secondo me così, perché ormai è una compagnia privata, e vuole giustamente cercare di migliorare la propria efficienza. Allora, il problema di base che non è stato, diciamo, non è stato affrontato prima è quello che praticamente Alitalia nel 2009 aveva deciso di avere 6 basi. Perché? Perché prendeva gli aerei di Air One e quindi manteneva ad esempio Catania, Venezia e altre basi in Italia oltre a Roma e Milano. Allora, chiaramente il business dal 2014 è completamente cambiato, perché nel 2014 Alitalia stava per fallire un'altra volta, forse non tutti se lo ricordano, ma bene ricordare, e quindi tutti i dipendenti se ne sarebbero andati a casa. Nel 2014 arriva Etihad e dice: va bene, rifocalizziamo il nostro business solo su Roma Fiumicino, soprattutto con voli intercontinentali, e Milano Linate, dove abbiamo una forte base e riusciamo a collegare molte destinazioni europee e molte destinazioni italiane. E chiaramente i piloti e gli assistenti che prima magari vivevano a Venezia e a Catania si sono trovati in difficoltà. Per due anni questi piloti e questi assistenti di fatto potevano viaggiare gratuitamente da Venezia ad andare ad esempio a Roma per partire. Da contratto, da quello che so io, come tutte le compagnie aeree, anche Ryanair, EasyJet, tutte le grandi compagnie aeree, hanno come clausola che devono stare nel raggio di 50 km. Perché? Perché chiaramente io devo andare a lavorare la mattina presto e mi devo trovare vicino all'aeroporto. Lo stesso fanno un ingegnere che fa manutenzione dell'aereo, chiaramente deve vivere relativamente vicino a Roma Fiumicino se vuole operare ogni mattina, e chiaramente lui si paga la benzina per andare all'aeroporto di Fiumicino e la compagnia non gli paga. Per esempio Giuricin, ci arriva un messaggio proprio in questo momento, un ascoltatore dice: sono di Lufthansa, la mia sede è Francoforte, se abito ad Amburgo come raggiungo la sede sono problemi miei. Completamente d'accordo, e questo è il punto. Allora, possono continuare ad muoversi, diciamo, con tariffe che dove pagano solo una certa piccola parte, ma non del biglietto, diciamo per rimborso spese aeroportuali, anche minimamente alcune compagnie fanno anche rimborso carburante, però non totalmente gratuito, perché chiaramente la compagnia ha cambiato le basi e chiaramente chi lavora per la compagnia, se decide di stare dentro la compagnia, purtroppo, perché capisco che è estremamente difficile per molte persone, però si deve adeguare. Perché? Perché altrimenti la compagnia sarebbe già morta e nessuno dei dipendenti avrebbe ora la possibilità di lavorare. Visto tante volte che l'abbiamo salvata con i soldi dei contribuenti, no? Forse fa bene, facciamo ancora bene a ricordarglielo a chi lavora in realtà. Per una volta che non è stata salvata con i soldi dei contribuenti, secondo me, dal mio punto di vista liberale, è un grande passo in avanti. Poi è privata adesso, a mio parere giustamente fanno quello che è meglio per la compagnia, per gli azionisti e possibilmente per i clienti, come ha dimostrato l'amministratore delegato, ci tengono i clienti. Esatto. Di Vietri, lei come risponde? Insomma, perché l'amministratore delegato dell'Italia è stato molto duro. All'Italia quello che vige è il cadornismo. Caricare sui sottoposti le responsabilità. Questo proprio è la regola da sempre. Allora, quando è arrivata Etihad, i naviganti, e solo loro, quindi solo piloti e assistenti di volo, per avere l'onore di avere Etihad a bordo, hanno sborsato 30 milioni di euro, lasciando la loro tredicesima, solo loro. Questo è avvenuto nel 2014. Lo sciopero è strumentale dire che viene fatto per questa minutaglia, perché non è quello il tema dello sciopero, quella è la strumentalizzazione di Cramer Ball. Lo sciopero è stato fatto, il primo tema sono i licenziamenti discriminatori, la macelleria sociale che fa questa compagnia, che manda a casa una signora con 30 anni di anzianità che accudisce una figlia da sola, una figlia con un grave handicap, perché ha superato il periodo di comporto durante un infortunio sul lavoro. Queste sono le cose che ci fanno incazzare. Questo tipo di socialità che c'è questa compagnia. Lei dice si attacca a quello che è chiaro, che viene dipinto come un privilegio, sposta, e invece i problemi sono altri. Ma si sposta altri. Non solo, ma sempre rispetto ai costi industriali. E ripeto, l'Alitalia perde tanti soldi non per scelte industriali sbagliate fatte da piloti o assistenti di volo che si sono, ribadisco, ampiamente mondati di tutti i privilegi degli anni 60 e degli anni 70. Sì. Semplicemente perché 80 e 90. Nel 92 abbiamo finito, ha ragione. Fino al 92 abbiamo acchiappato. dal 92 in poi è stato un bagno di sangue. Beh, non è male. Io parlavo degli anni urgenti. Sì. È vero, ma qua nessuno si nasconde dietro un dito. No, no, perché scusi, ricordiamo anche che l'Italia è andata piccola, abbiamo più volte salvata, gli abbiamo dato 8 anni protratti di cassa integrazione. Non facciamo una conferenza su quanto contassero le sigle nella gestione dell'Alitalia, nei turni operativi, nei costi. Quindi i sindacati e i dipendenti hanno avuto per decenni maniera per distruggere la compagnia. Adesso è passata quella storia, è passata. Mi perdoni, Malpensa 2000, lei ricorderà benissimo chi e perché l'ha voluta, altro che Gioia Tauro. Sì, Malpensa 2000 è quella che ha fottuto l'Alitalia. Sì, non solo l'Alitalia, quella, cioè, i costi e le mille sigle che erano nella gestione operativa. Però, detto questo è il passato, non stiamo parlando di quello. Va bene, parliamo del presente. Allora, nel presente le motivazioni dello sciopero sono semplici nella loro gravità. I licenziamenti, perché sì, le ho fatto un caso, ma non è l'unico caso. Le cosiddette attenzioni gestionali, e parliamo sempre di gente che ha dei problemi di 104 serie, non del nonno in cariola, parliamo di gente che ha i figli che stanno male o genitori che hanno in casa, che avevano un'attenzione gestionale rispetto per esempio all'esonero del lavoro notturno, a fargli fare dei turni giornalieri, che avevano un costo per le persone che le facevano, perché chiaramente guadagnavano di meno, ma dava una rigidità. Ma perché disconoscete all'azienda di aver fatto anche le assunzioni, grazie al fatto? Perché lo no, guardi, l'azienda ha fatto le fucilazioni, le assunzioni le doveva fare per forza, se no gli aeroplani se li volavano da soli. Quindi le ha fatte, ma non vanno bene, ho capito. Diciamo, le fucilazioni anche no. Comunque, insomma, la macelleria sociale è quello che lei sostiene, e ci dobbiamo fermare perché è il momento del giornale radio. Ringraziamo Antonio Di Vietri, presidente dell'associazione. Ma ricordiamo che noi per passione vogliamo solo che si ricordassero quelli dell'Alitalia, che agli occhi di milioni di dipendenti italiani che non hanno avuto neanche un centesimo delle attenzioni che hanno avuto loro, e con questa roba forse è meglio se la ricordino. E con lui salutiamo anche Andrea Giuricin. Non salutiamo voi però, perché andiamo avanti fino alle 9:30. Dopo il giornale radio parleremo di errori giudiziari, visto che si è parlato di Ilaria Capua, insomma, anche se qualcuno ci dice ma non è un errore, cioè è stata fatta un'indagine, è stata chiusa, è stata assolta, semmai è stata troppo lunga, ma qui si può dibattere. Ma ci sono persone invece che finiscono in carcere, esatto, per errori giudiziari veri e propri, e sono tante. Vi daremo il numero dopo le 9. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Non arrivano buone notizie dalla fotografia che viene scattata ogni mese dall'Istat per anticipare l'andamento atteso del ciclo economico. Il risultato è che nella nota di giugno l'Istituto di Statistica segnala che l'indicatore composito, anticipatore dell'economia italiana, evidenzia una nuova discesa, proseguendo la tendenza già in atto da inizio anno. Questo significa che nel nostro paese la ripresa economica continua a essere debole e anzi nel breve periodo dovremo aspettarci un nuovo rallentamento della crescita. Secondo l'Istat, su questa previsione piuttosto pessimistica pesano i segnali non buoni che arrivano dai consumi, sia dal clima di minor fiducia delle famiglie e delle imprese, soprattutto quelle del settore dei servizi. Quindi non bene, ma qual è il punto? Beh, il punto è che l'indice anticipatore comunicato ieri dall'Istat non tiene ancora conto dell'effetto Brexit, effetto che ora è visibile benissimo sui mercati finanziari che stanno soffrendo molto, specie quello italiano, ma che non si è ancora trasferito all'economia reale. L'effetto Brexit ci sarà, di questo sono assolutamente tutti convinti, tanto che le stime economiche che via via vengono aggiornate sia dalle istituzioni sia dai centri di ricerca indicano un significativo rallentamento della crescita del PIL in tutti i paesi, un rallentamento che per l'Italia si farà già sentire nel 2016 e che sarà ancor più marcato nel 2017, con una crescita del PIL ben lontana da quell'1,4-1,6% previsto solo pochi mesi fa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa unica. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui alle 9 e 6 minuti e siamo pronti ad andare avanti fino alle 9.30 come di consueto, caro Oscar. E comunque c'era la mafia anche alla Fiera di Milano e all'Expo, dice i magistrati, un'indagine a Boccassini, insomma. Sì, sono stati fatti 11 arresti a era Milano. Era meglio saperlo prima della campagna elettorale, però va bene comunque così. Va bene, comunque. Giuseppe ci chiama da Lucerna. Buongiorno Giuseppe, eccoci. Buongiorno, volevo chiedere, dato che io sono uno di quegli fessi o sfortunati che ha dovuto fare le valigie ed emigrare per avere un buon lavoro, volevo chiedere magari se io vi mando il mio CV e voi mi riuscite in qualche partecipata, pizza. Ma anche 100-110.000 mi bastano. Ecco, e si riferisce naturalmente alle retribuzioni del Giro Pizza. Possiamo e darle, parenti Alfano. Possiamo farle avere una pizza, questo, ma una sì, pizza margherita. Evidentemente non ero competitivo sul mercato italiano e quindi vabbè. Cioè diciamo, leggiamo nella sua sfumata ironia il fatto di sentire o vedere che, non so, il fratello del ministro Alfano è alle poste. Dirigente alle poste e lei invece è a Lucerna. Sfumata ironia, direi. Vabbè, ma non è che lei pensa che il fratello di Alfano gli abbia rubato il posto di lavoro? No, non solo a lui, a tanti altri. Mi piacerebbe vedere il CV comunque, tanto per farmi un'idea di quanto è più bravo di me, cosa posso fare io per migliorare. E dipende, lei quanti voti porta ad Alfano eventualmente? Perché poi si è tagliato fuori con le sue mani. Stia Lucerna, grazie, la sua candidatura è stata esaminata. Perché guardi, temo di capire che il criterio sia un po' quello. No, va bene, Giuseppe, a parte la considerazione molto anche amara, mi sembra di capire, che fa Lucerna lei? Cioè come mai è andato? Faccio ingegnere, progetto aeroplani. Cioè, scusi, insomma, lei per di più si è specializzato a prendere allora, sugli aeroplani. Cioè, gli aeroplani non sono più pubblici, ma allora lo dica che non vuole lavorare in Italia. Insomma. È un provocatore. Fa scelte avanzate, è un provocatore. Sì. È un provocatore. Sono un autorazzista. Buona è venuto qui a provocarci, caro Giuseppe. Abbracci, la ringraziamo, Giuseppe, abbracci. Perché lei, secondo me, mantiene uno spirito bello, straordinario. Che di sicuro anima, Giro Pizza e Alfano non ha invece. Giro Pizza, nel senso che paghi 10 esatto. euro, c'hai pizza gratis. Pizza gratis, cioè, sì. Pizza volontaria. Pizza gratis e commessa ai ministeri. Ci sono in Giro Pizza. Sei mai andato in Giro Pizza? No, io no. Ma 10 euro c'è la pizza a metro. E c'è la pizza a metro. Il giro pizza è quello. E la pizza al voto invece. Vabbè, in realtà adesso dobbiamo parlare di un tema molto molto con toni anche più gravi, perché il tema purtroppo è grave e serio. La prima cosa che ho visto sono stati dei lampeggianti blu, erano le 4:30 di mattina. Mia moglie mi disse: che succede? E io dissi subito: mi stanno arrestando. Scusate, ma io sono censurato, sono stato in carcere come pubblico giudicato, c'è qualcosa che non torna. Se si va a cercare a tutti i costi i colpevoli, si finisce per condannare persone innocenti. Caro Oscar, questi estratti sono di un docufilm dal titolo Non voltarti indietro. Questo docufilm che è stato realizzato tra gli altri da Valentino Maimone, che è con noi. Buongiorno Maimone. Buongiorno a voi. Insieme a Benedetto Lattanzia, l'avvocato Stefano Oliva, è anche curatore di un sito che si chiama errorigiudiziari.com. È un documentario che racconta la storia di chi, Maimone? Allora, racconta la storia di 5 persone qualunque. 5 esempi classici dei tantissimi esempi che ogni anno finiscono in carcere da innocenti. Sono 5 storie di persone come noi, cioè di estrazione sociale completamente diversa tra loro, uomini, donne, zona geografica completamente opposta. Ciascuno ha vissuto lo stesso dramma, cioè quello di finire in carcere da innocente, di vederci scagionato con la formula più ampia, dopo un'odissea alle prese con la giustizia, di essere in alcuni casi quasi sempre risarciti, ma di vedere la propria vita distrutta. Abbiamo voluto realizzare questo docufilm, che è il primo del suo genere mai girato in Italia, per dare un po' una fotografia del problema, cercando proprio di parlare di persone qualunque, per una volta lasciare da parte Enzo Tortora, lasciare da parte i politici, i VIP, e occuparci appunto delle persone ordinarie. Perché ce ne sono tante, voi avete fatto una fotografia, avete dato anche un numero che ha molto impressionato, impressionato, cioè in 24 anni quante persone innocenti sono finite in cella? Possiamo sono 24.844 a essere precisi, e il dato è aggiornato ai primi 3 mesi di quest'anno. Cioè mille all'anno. Sono mille all'anno. Ora però accanto a questo numero bisogna fare una riflessione rapida su un altro aspetto. Questi 24.000, quasi 25.000 ormai, stiamo ampiamente veleggiando verso quota 25.000, sono soltanto una parte di quelli che effettivamente... Fa bene a precisarlo. E spieghi perché? Perché? Perché noi stiamo parlando ovviamente di persone che hanno avuto risarcimento, parliamo in particolare delle ingiuste detenzioni, inutile adesso che facciamo una distinzione tra errori giudiziari. No, però insomma, in buona sostanza questo è il numero di coloro che attingono alla legge che c'è del 92, alla legge Pinto. Ma in realtà... Non in realtà, posso correggersi, scusami, non è soltanto la legge Pinto che prevede l'eccessiva lunghezza del processo, questo è vera e propria ingiusta detenzione, cioè... Quindi hanno dovuto fare una causa, cautelare, che non era dovuta, che è andata oltre i termini, che era ingiustificata. Subito dopo la sentenza di assoluzione definitiva, io ho 2 anni di tempo per presentare una richiesta per ottenere questa riparazione per ingiusta detenzione, una sorta di risarcimento. Ora, questa richiesta però, per tornare al discorso di poco fa, può essere respinta. Può essere respinta sulla base di motivazioni di un piccolo comma che c'è in un articolo del codice di procedura penale, che è il 314, secondo cui se tu vittima di questa ingiusta detenzione, hai concorso per dolo o colpa grave a indurre in errore il magistrato, il giudice che ti ha giudicato, a quel punto non hai diritto al risarcimento. Ora, dov'è il problema? Che questa postilla, questo comma del 314 del codice di procedura penale, in realtà negli ultimi anni sta avendo una interpretazione molto restrittiva, e cioè è dolo colpa grave, molto estensiva, più che restrittiva, estensiva nel ravvisarla e per negare il rimorso, cioè sta diventando un autoscusante di massa per i magistrati. Faccio un esempio classico che è capitato tantissime volte: l'imputato, o quantomeno la persona che ha subito tutta questa sua vicenda giudiziaria, ha fatto scena muta 2-3 interrogatori davanti al magistrato. Quello viene considerato un motivo. Colpa grave. Applicare questo per colpa grave, oppure addirittura dolo. I magistrati che danno ragione a se stessi. Comunque la cifra è impressionante: 24.844. E non è solo questa la cifra impressionante, si calcola che ce ne siano almeno un altro 30%, 40% appunto a cui è stata respinta la richiesta di risarcimento, e tutto ciò corrisponde a quasi 630 milioni di euro versati dallo Stato nello stesso periodo, cioè in questi 24 anni, alla media circa, molto a spanne, 26 milioni di euro, tenendo conto l'anno, tenendo conto però che ci sono stati anni in cui se ne sono versati 56. È chiaro, no? come il caso noi abbiamo ospitato anche Gulotta, ti ricordi, Oscar? Sono numeri da devastante bilancio di un sistema della giustizia che ha colpe profonde. Vediamo, il problema è che i magistrati dicono: dateci più soldi, dateci più uomini, e non fate le leggi che ci mettono in bastone tra le ruote. Questa ma è la loro tesi. Ne parliamo oltre che con Valentino Maimone, che ricorda con noi, anche con Beniamino Migliucci, che ringraziamo, il presidente dell'Unione Camere Penali, cioè dei penalisti. Buongiorno, buongiorno presidente. Buongiorno a voi. E, ovviamente la domanda, cioè i dati, la fotografia impressionante è questa. Viene da dire tre cose che si possono fare per ridurre al minimo, ovviamente ridurre a zero gli errori giudiziari è un po' impossibile, ma ridurre al minimo questa cifra, quali sono secondo lei, presidente? Ma la fotografia è questa ed è emersa da un'analisi fatta dall'allora viceministro Costa insieme a noi, che per primo ha cercato di far capire quanto i numeri fossero rilevanti, e come diceva Maimone il numero non è effettivamente solo questo, perché molti non fanno la causa per ottenere l'indennizzo. Diceva Maimone: occupiamoci appunto di tutte le persone meno note che subiscono queste ingiustizie, però per esempio l'aver portato all'evidenza il caso di Tortora io credo che sia importante, perché è terribilmente attuale. Tortora scriveva in una lettera dal carcere: io spero che questo paese capisca e reagisca, sperava che il suo sacrificio non fosse inutile. Allora io credo che questo serva proprio anche per le persone che non hanno voce. Che cosa si può fare per cercare di eliminare queste ingiustizie? Gli errori esistono e continueranno ad esistere in qualsiasi sistema. Il problema è che per evitare che siano così dirompenti nella vita delle persone bisogna limitare al massimo la custodia cautelare, che dovrebbe essere proprio l'estrema ratio. Bisognerebbe riaffermare con forza il principio della presunzione di innocenza, dalla quale ogni giorno ci allontaniamo colpevolmente. Ci vuole ricordare, Presidente, quante persone sono in questo momento in carcere in attesa di giudizio, quindi senza neanche un primo grado. Si calcola sostanzialmente tra il 30 e il 35%, sono un numero molto cospicuo. Quindi persone che poi già in primo grado potrebbero essere assolte. Potrebbero essere assolte. Poi bisognerebbe essere più consapevoli, c'è chi vuole, abbiamo letto sul Fatto Quotidiano l'ex procuratore Caselli che dice va bene, per rendere ragionevolmente breve il processo eliminiamo l'appello. Ora, se l'appello non ci fosse stato, Tortora sarebbe morto colpevole. Il 40% delle sentenze di primo grado vengono riformate in appello. E poi io credo che bisogna anche invece togliere gli alibi ai magistrati, perché quando il ministro Orlando dice c'è una scopertura di organico e quindi bisogna far funzionare meglio la giustizia, bene, lo faccia, e tolga gli alibi invece a chi dice bisogna allungare all'infinito i processi, allungando i tempi di prescrizione, che naturalmente comporta un sacrificio, una punizione per chi subisce il processo, ma anche per le persone offese e per la società. Bisogna cercare di fare in modo che il processo davvero abbia una durata breve, bisogna riaffermare la centralità del dibattimento, e cioè non bisogna condannare le persone già nella fase delle indagini, perché poi questo si riflette sul processo, quello vero. Ecco, questi sono degli antidoti che potrebbero funzionare, però mi sembra che la strada che si sta percorrendo sia diversa. Non mi pare proprio. Un paese in cui il Presidente della Corte Costituzionale è Criscuolo, non, queste cose non le fa. Criscuolo, lo ricordo a tutti, per essere chiari, è stato per anni, e ripeto, è arrivato alla Presidenza della Corte Costituzionale, per carità di Dio, è stato per anni Presidente dell'ANM, difese a spada tratta per anni i pubblici ministeri che avevano incatenato Tortora, malgrado iniziasse a diventare chiaro sempre di più nei dibattiti pubblici che l'impianto di quell'indagine non stava in piedi, lui attaccava brutalmente, sostenendo di attacco alla magistratura, chi obiettava in nome della legalità e della libertà e della verità, ecco, è Presidente della Corte Costituzionale. Allora, la mia opinione è che un paese che premia così queste tesi della magistratura, non vedo come poi possa fare quello che ci dice. Purtroppo, giustamente, condivido il Presidente della Camera Penale. Non so, sarò troppo eccessivo, Migliucci, che dice? No, non è eccessivo, addirittura se trovasse conferma la notizia che abbiamo letta, noi chiederemo naturalmente al ministro Orlando uguale trattamento. Pare che l'ANM abbia offerto la propria collaborazione nella preparazione, nella predisposizione di norme, quindi una consultazione permanente. Chiederemo al ministro Orlando che consulti anche noi, perché oltre ad avere un CSM che spesso funziona da terza camera impropriamente, adesso ci manca solo che l'Associazione Nazionale Magistrati via dei pareri consultivi, che possono essere anche validi qualora si tenga anche in considerazione il parere degli avvocati. Ricordiamo che l'ANM è il sindacato, sindacato dei magistrati. Vogliamo sentire un ascoltatore che ci chiama all'800240024, è Marco dalla provincia di Livorno. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno Oscar, buongiorno. Ascolti, io volevo raccontarti semplicemente veloce per non rubare tanto tempo. Sì. Io nel 99 mi hanno processato per un furto piccolissimo, un moto carino, un tre ruote. No? Mi sono mangiato la mia carcerazione, i miei 6 mesi, va bene, li ho presi, punto e basta. Quando sono uscito dal carcere, no? Quindi me ne sono andato via dalla mia terra, mi è arrivato, diciamo, un fermo di polizia, in definitiva mi fermano, c'era una notifica da andare in questura, a notificarla. Niente da fare, mi è arrivato un altro definitivo. Io sapevo che comunque sia non ne avevo più, perché comunque un estratto matricola quando ero in carcere l'avevo fatto, non avevo più niente. E come mai? E che reato era? Un furto, lo stesso reato lo stesso, come lo stesso reato, reato? È lo stesso reato che avevo già scontato 14 di agosto 99, mi sono fatto i miei 6 mesi con lo stesso reato. Io sono andato a Solicciano, cioè, perché poi mi sono trovato a Firenze, mi hanno portato dentro, quindi per cui mi sono mangiato un altro anno e 4 mesi con lo stesso reato. Cioè lo stesso reato l'ha pagato due volte, ma due volte, ho fatto l'incidente di esecuzione, incidente di giudizio, comunque sì, ho fatto tutto, ma con l'avvocato d'ufficio, perché io sono un povero disgraziato. L'avvocato, se lo sappiamo come funziona, e niente, mi hanno accettato l'incidente di giudizio il giorno prima che finivo la carcerazione. Io comunque sì, ho detto me l'ho mangiato ormai, cosa devo fare? Cioè il giorno prima della seconda carcerazione mi hanno detto sì, effettivamente ci ha sbagliato, non doveva farlo lo stesso prima che scadesse. Il giorno prima di uscire. Mi hanno mandato la notifica dal Ministero di Grazia e Giustizia da Roma, dicendomi che mi avevano accettato l'incidente di giudizio. Cioè, ma lei aveva già fatto il carcere per la seconda volta nel frattempo? No, io ho fatto quella e questa che gli sto raccontando. Poi non ho avuto altri precedenti penali. No, è chiaro. Cioè, beh, cioè, per questa cosa, insomma, vabbè, è chiaro che è un errore, se i fatti sono dice, così, come no? Si dice, è un errore clamoroso, cioè, un errore c'è un grave. Vecchio brocardo che dice ne bis in idem e si rivolge al processo. Qui non siamo, processo non gli hanno rifatto. Ma Marco, ma hanno applicato due volte la sentenza, come dice lei. E come è finita la vicenda? Cioè lei ha fatto causa? No, che... io non ho fatto causa. L'ultima mi è successa adesso qua a Pisa. L'ultima è successa qua a Pisa, questa mi è successa proprio in quest'inverno. E che poi comunque mi conosce Radio 24, perché l'ascolto sempre. E l'ultima è questa: si ferma un amico, mi chiede una sigaretta, morale della favola. Sì, e ci sono quasi 2 anni qua a Pisa, non sono un tranquillone. Mi chiede la sigaretta, arrivano i carabinieri, no? Gli beccano il fumo, questo è incensurato, mi sono fatto 2 mesi dentro. Quando mi hanno processato in carcere al Don Bosco qua, no? dopo 20 giorni mi hanno processato, c'era semplicemente il PM e la dattilografa che scriveva, l'avvocato d'ufficio, in poche parole l'avvocato. Vabbè, che Marco, piano... insomma, una storia un po', ecco... travagliata sicuramente, però due volte scontare la condanna per un reato è un po' effettivamente è una cosa grave. Io vorrei tornare un attimo da Valentino Maimone. È il classico che si dice in carcere, e quante persone lo dicono, sono innocente, sono dentro ma non ho fatto nulla. Il problema è che è un po' come la storia di Al lupo al lupo, cioè alla fine non ci si crede mai, e invece bisognerebbe crederci tante volte. Cioè, come si distingue un errore giudiziario poi tra tutti quelli che dicono sono innocente? Allora, è impossibile, ovviamente non c'è una risposta a questa domanda, naturalmente. C'è però una riflessione, secondo me, che va fatta a questo proposito. Primo punto, non possiamo considerare, come sento dire soprattutto in questi giorni ma da diverso tempo, non possiamo considerare il numero di errori giudiziari e ingiuste detenzioni in Italia come un dato fisiologico, non lo è. Anche chi fa dei raffronti con l'estero porta dei numeri che non sono corretti, non è giusto paragonare con il nostro sistema giudiziario italiano. E io posso fare un solo esempio: in Francia 2010 90 richieste per ottenere risarcimento per ingiusta detenzione, in Italia stesso anno 1319. Allora è un sistema abbastanza simile che possa essere avvicinato al nostro. Negli Stati Uniti 2000 negli ultimi 23 anni errori giudiziari riconosciuti, persone strappate tra l'altro dal braccio della morte. Voglio dire, in Italia soltanto nel 2011 sono stati 2369. Allora, non è un problema fisiologico. Io mi rendo conto che non si può, come giustamente diceva il Presidente Migliucci poco fa, non è un problema che si può risolvere definitivamente e estirpare la radice, ma va rigorosamente circoscritto. Bisogna trovare il modo, proprio con quegli strumenti che ha detto poco fa il Presidente, riunione delle Camere Penali, bisogna trovare il modo per circoscriverlo, ridimensionarlo, sedendosi a un tavolo e accettando di parlare al di là dei soliti steccati, delle solite barriere e contrapposizioni, spesso purtroppo solo politiche, che si verificano nel nostro paese. Soprattutto politiche, soprattutto Oscar, mi sembra che soprattutto siano contrapposizioni politiche e steccati ideologici invalicabili a volte, no? Di corporativi, mi verrebbe anche da dire, no? Sì, la mia opinione è che i magistrati hanno lavorato meglio dei politici su questo. Nel senso che per decenni, nei decenni fino agli anni 70-80, hanno conquistato una specie di concorrenza tra schieramenti a far loro più favori ordinamentali. Favori ordinamentali perché in Italia hanno uno status ordinamentale che va oltre quello che c'è in tutti i paesi avanzati, se uno fa in termini comparati, e così, e dopodiché hanno iniziato ulteriormente a esercitare un potere molto molto esteso. Cioè, non dimentichiamo che questo è un paese in cui il potere di redigere i testi in realtà normativi è praticamente appaltato ai magistrati, nel senso che i consiglieri, gli uffici giuridici dei ministeri e così via sono i magistrati a scriverlo. Il Ministero di Grazia e Giustizia, che ricordiamo naturalmente non ha competenze sulle sentenze, sulla parte, ma solo sulla parte ordinamentale del sistema giudiziario, in buona sostanza è nelle mani dei magistrati per quello che riguarda i dirigenti e così via. Sbaglio secondo lei, Presidente Migliucci? No, direi che l'analisi è perfetta, e ma il Ministero della Giustizia è composto esclusivamente, tranne un avvocato amministrativista, da magistrati, quindi chi consiglia anche il governo per le strade da intraprendere legislativamente sono magistrati, alla Corte Costituzionale per lo più gli assistenti sono magistrati, insomma occupano tutti o quasi tutti gli spazi, mentre anche l'Accademia e l'Avvocatura potrebbe dare, credo io, in questo paese un contributo più che valido. E poi lo snodo fondamentale, credo che anche Maimone sia d'accordo su questo, è quello di battersi per la separazione delle carriere. Senza un giudice terzo, noi in autunno lanceremo questa battaglia per una legge costituzionale, la presenteremo, raccoglieremo le firme. Senza un giudice che sia diverso da chi accusa e chi difende, evidentemente non ci sarà una vera riforma, e anche gli errori saranno di meno, perché il giudice sarà davvero diverso da chi accusa e chi difende, sarà un controllore anche della legalità, delle prove, così come dovrebbe avvenire. Dobbiamo però fermarci assolutamente qui. Ricordo errorigiudiziari.com, se non vi interessano i numeri, le 24.000 persone in carcere ingiustamente, il 35% in carcere in attesa di giudizio. Oscar, io dico, pensate che spendiamo 26 milioni di euro all'anno inutilmente di risarcimento, così vi tocchiamo nel portafoglio, magari vi interessa un po' di più l'argomento. Speriamo, ma secondo me se non interessa la libertà è difficile che reagiscano a questo. Lo so, ma gli si tocca dove si è più sensibili, no? Gli ascoltatori, quelli un po' meno sensibili. Infatti, ma nel frattempo non temiamo, qualcuno assumerà qualche figlio di... Va bene, intanto andiamo a berci un caffè, va, a domani.